Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Se non fosse sabato, Chiara, non ve lo diremmo, ma siccome è sabato... Ah no, siamo qui e anche ad agosto siamo qui. Come eccoci cominciamo, qua. Dai? Ah, puntata un po' tecnologica e innovativa. Iniziamo con il colpo d'unghia, che non è una pratica per estetiste, ma invece è un gravissimo problema che riguarda gli elettrodomestici bianchi. Un vero disastro. E poi tenteremo una grande impresa, vi spiegheremo come funziona il computer quantistico. E finiamo con un'invenzione, con l'aneddoto dell'invenzione di questa innovazione, che è proprio il sistema Morse. Via! Adesso vi spieghiamo che cos'è il colpo d'unghia. Che non è una pratica per estetiste. Ma è una roba drammatica. È quando sull'elettrodomestico appare un graffio forte, no? Che sembra come fatto se fosse con un cacciavite, no? Esatto. E appare al venditore, il quale dice questa roba non la posso mettere. È un difetto di fabbricazione. Ecco. A parlare del colpo d'unghia c'è con noi questa sera Giuliano Gorini. Buonasera a tutti. Benvenuto. Buonasera agli ascoltatori dell'azienda Letomec, di cui parliamo dopo. Adesso con lei dobbiamo andare al colpo d'unghia, che è un termine che esiste nel mondo del bianco, no? Che sono lavatrici, gli elettrodomestici, elettrodomestici bianchi, no? Che esatto, sono bianchi, esatto. Perché? Perché sono smaltati, no? Esatto, si chiama industria del bianco, che si contrappone all'industria del nero, che sono i vecchi stereo, altri tipi di elettrodomestici. Esatto. Il bianco, sì, con il bianco sono prodotti qua le pianicottura, boiler, abbiamo chiaro, impieghi, lavatrici. Questa cosa terrificante del colpo d'unghia per chi produce e per chi vende, che cosa significa? Com'è che si genera? Allora, il colpo d'unghia viene generato a seguito della permeazione dell'idrogeno nel materiale con cui vengono costruiti i pannelli delle lavatrici, delle lavastoviglie. Cosa accade? Accade che l'idrogeno permea, cerca di uscire dal materiale, dall'acciaio, però trova una barriera che lo ostacola, che è appunto la smaltatura. Però l'idrogeno è talmente forte che spingendo intacca la smaltatura e quindi si ha un effetto sulla superficie che dovrebbe essere bianca, liscia e esteticamente molto bella, certo. Una superficie, diciamo così, un po' butterata. Ma l'idrogeno si trova intrinsecamente nell'acciaio che viene utilizzato per costruire questi elettrodomestici? Allora, assolutamente sì, cioè l'idrogeno è ovunque, si trova anche nell'acciaio, però quello che impatta è la quantità dell'idrogeno. Infatti durante il processo produttivo dell'acciaio c'è anche una fase che tende a togliere l'idrogeno. Però quando si acquista la materia prima, difficilmente si riesce a sapere con precisione se la quantità di idrogeno, detta in termini molto semplici, è una quantità di sicurezza accettabile. Il guaio è che lei adesso ci dirà che questo benedetto graffio butteramento dall'interno non lo si vede subito. No, infatti il problema che affligge appunto i produttori è che il difetto emerge dopo, e questo dopo vuol dire che può emergere quando il prodotto è direttamente nei magazzini a grande distribuzione oppure è direttamente in casa del cliente. Quindi la massaia si vede che questa lavatrice da un certo momento inizia a diventare brutta, cioè avere questi colpi d'unghia sulle superfici smaltate. E questo è, diciamo, abbastanza disastroso certamente per il cliente, ma anche per il produttore, perché significa che c'è qualcosa che non va nella catena di produzione. È possibile risalire al punto in cui c'è stato questo inconveniente? Com'è che lo si evita? Infatti gli impatti dal punto di vista del produttore sono notevoli, perché il produttore deve richiamare il prodotto, deve rianalizzare il processo e deve cercare di capire da dove scaturisce il problema. È qui che noi diamo una mano, perché riusciamo ad intercettare a monte la materia prima che non darà il problema del colpo d'unghia. Esatto, infatti siamo arrivati all'innovazione che voi proponete. La Letomec ha un sistema che chiamate Helios. Esatto. Certo, qui ci rifacciamo al maledettone, l'idrogeno che crea tutto. Questo sistema che cosa fa per evitare il colpo d'unghia? Questo sistema sistema è in grado di analizzare la materia prima in maniera non distruttiva ed è in grado di dare un valore che poi sintetizziamo con il nostro software proprio con un semaforino rosso, verde o giallo, che determina la qualità dell'acciaio e quindi è in grado di dare un input preciso e in brevissimo tempo al produttore sulla qualità dell'acciaio che può utilizzare nel processo produttivo. Cioè avete messo a punto un sistema che prima che l'acciaio venga messo in produzione ne analizza, diciamo, la composizione e attraverso un semaforo ti dice: semaforo rosso è un acciaio problematico, semaforo verde puoi partire con la produzione, così? Esattamente. Questa è l'innovazione. Ecco, non è solo nell'industria del bianco, nel senso che questa cosa può essere applicata anche in altri ambiti dove si ha a che fare con del materiale che può avere questo poi problema, questo tipo di evoluzione negativa? Esattamente. Anzi, diciamo che l'industria del bianco è quella da cui siamo partiti perché c'era un'esigenza impellente. Abbiamo collaborato con le più importanti industrie, però le applicazioni sono pervasive, anche perché l'idrogeno è ovunque e quindi le applicazioni più importanti sono previste nell'industria dell'automotive e nell'industria dell'oil and gas, dove però il problema non è meramente estetico, ma anzi è ancora più importante, perché il fenomeno si chiama hydrogen embrittlement, cioè infragilimento dell'idrogeno. E che cosa genera? Per esempio, so che vedo che c'entra anche con viti e bulloni, sto leggendo una vostra scheda, nel senso che lì che problema, com'è che si manifesta il problema? Allora, il problema principale sta nel fatto che storicamente l'acciaio ha subito un'evoluzione. Le performance dell'acciaio sono aumentate di circa 7 volte in nel tempo. Questo acciaio che l'industria vuole sempre più performante, cioè sempre più duro e sempre più leggero, ha però la caratteristica di infragilirsi, cioè di diventare più fragile con l'incremento delle performance. E l'infragilità deriva da appunto sempre dallo stesso motivo, dall'idrogeno che permeando crea delle microchicche che si allargano e creano la rottura del materiale, quindi potrebbero creare la rottura di un componente che potrebbe essere usato nell'oil e gas o nell'automotive. Quindi delle microcrepe che macroscopicamente non si vedono, ma invece con questo sistema è possibile individuare. Certo, se pensiamo a viti e bulloni vuol dire che la solidità dello strumento se ne va. Esatto, quando per esempio si vede, che ne so, uno sportello che cade, è perché molto spesso magari è la vite, il bullone che lo incernierava, ha avuto un difetto. La causa potrebbe essere questa. Frequente è proprio questa. Gorini, grazie, ci sembra un'innovazione piuttosto interessante per tantissimi aspetti e quindi buon lavoro, successo. Grazie mille. Arrivederci. Va bene, abbiamo finito con gli elettrodomestici, vediamo cosa combiniamo con le auto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La ricerca scientifica è fatta di grandi sfide e anche una sfida ogni tanto parlare di quello che fa la ricerca. Tommaso Calarco, adesso io la presento, ma ce la faremo questa volta? Cosa dice? Ce la mettiamo tutta, mettiamo. Una delle cose che facciamo con il massimo entusiasmo, perché è fondamentale che queste cose non siano misteriose, esoteriche, ma che tutti le possano capire. Va bene, allora Tommaso Calarco, direttore del Centro di Scienze e Tecnologie Quantistiche dell'Università di Ulm e Stoccarda, lei col suo gruppo si interessa, lavora sui computer quantistici, è un argomento ostico da affrontare. Vediamo un attimo, si parla tanto di computer quantistici qua e là, anche su giornali di grandissima tiratura rivolta al largo pubblico, capita, ma solo per dire che stanno per arrivare e sono molto potenti e faranno grandi cose. Quello che dobbiamo riuscire a fare noi adesso, Calarco, è cercare di capire perché c'è questa grande potenza rispetto ai computer che abbiamo. E credo che lei voglia partire, ci siamo sentiti prima di questa intervista, da un grande fisico teorico che si chiamava Richard Feynman. Sì, allora è una buona idea partire da lì, perché abbiamo un esempio concreto di come mai il computer quantistico può fare tanto di più di un calcolatore classico, li chiamiamo quelli che abbiamo oggi tutti i giorni. Okay. Perché? Perché ci sono problemi che sono difficilissimi. Ad esempio, prendiamo un esempio specifico, problemi di capire le reazioni chimiche, ad esempio per i farmaci o per altri processi anche tecnologicamente importanti, oppure problemi di capire come funzionano dei materiali complessi, come ad esempio potrebbero essere dei superconduttori ad alta temperatura, dei sistemi in cui la corrente non incontra resistenza, non dissipa, non ci sono perdite di energia. Capire questi, come funzionano questi materiali, questi composti, è qualcosa che un calcolatore attuale, classico, non ce la fa. Non ce la fa. Perché è troppo complicato, perché questi sistemi obbediscono alle leggi proprio della meccanica quantistica. Ok. Allora, a che cosa serve il computer quantistico? E qual è la differenza? Il computer classico, lo sappiamo tutti, ha dei bit, che sono zeri e uni. Ora, per scrivere ciascuno di questi bit, nel computer classico, nei nostri telefoni, nei nostri PC, nei nostri laptop, ci sono sempre milioni e milioni e miliardi di elettroni per ciascuno di questi zeri, per ciascuno di questi uni. Provo a fermarla, perché qui bene o male si tratta di accendere e spegnere un interruttore. Lei dice però, cos'è questo interruttore? Un oggetto nel quale passano dei flussi di corrente dove c'è una montagna spaventosa, no? di atomi, di elettroni. Quindi lei dice, utilizza un'infinità, no? di materia. Esatto. Esatto. Cosa fa invece il computer quantistico? Qual è la differenza? Lui, per ciascuno di questi zeri e uni, invece di accendere e spegnere un intero circuito, lui accende e spegne, per così dire, un singolo atomo. Cosa vuol dire? Che questo atomo, un singolo proprio, che lo possiamo manipolare individualmente, lo possiamo mettere in diversi stati che possiamo chiamare come 0 e 1. A sto punto io ho ciascuno degli elementi del mio computer, è un singolo atomo. Allora non ho più bisogno di costringere una montagna, un'infinità di elettroni a comportarsi come gli atomi singoli che stanno ad esempio in una molecola. Io posso direttamente prendere degli atomi di un altro materiale con cui costruisco il mio computer quantistico e li metto insieme e li faccio interagire, li metto in una struttura che riproduce quelle che sono le proprietà della materia che voglio studiare o del composto chimico che voglio studiare. E allora che diventa enormemente più efficiente. Adesso proseguiamo, però facciamo un passo indietro. In fondo l'intuizione di Feynman, che era veramente un personaggio con grandi idee, si basa sul fatto che la complessità di certe cose da analizzare, per essere analizzata bisogna che abbia uno strumento complesso. È un po' un analogo, noi qui ogni tanto ne abbiamo parlato in trasmissione, di quello che sta avvenendo nella robotica, no? Quando coloro che fanno ricerca in robotica dicono, noi abbiamo bisogno di robot che impari, no? Perché noi diventiamo intelligenti imparando, quindi non possiamo costruire delle macchine che hanno già dentro tutte le funzioni, abbiamo bisogno di macchine che evolvano. Qui c'è di fatto un analogo, no? Perché si tratta di avere strumenti complessi. Allora lei dice, dobbiamo analizzare una realtà molto complessa, mettiamoci a lavorare con l'unità di base, insomma con gli atomi, e così la interpreteremo. Però mi viene da chiederle, Calarco, va bene, se dobbiamo interpretare molecole, lei prima citava tutto il caso dei farmaci, ma però poi un computer serve anche per fare calcoli. Ma certo, allora infatti l'idea iniziale da cui siamo partiti, da cui abbiamo partito questa conversazione, da cui è partita la ricerca, è stata quella di Feynman, un analogo, noi lo chiamiamo un simulatore quantistico, un tipo molto speciale di calcolatore quantistico, come dice lei, risolve solo certi problemi. Ma poi nel costruire questo, siccome siamo dovuti andare a manipolare individualmente i singoli atomi, i singoli elettroni, ci si è accorti che, e questo è stato una dozzina d'anni dopo che Feynman aveva proposto la sua idea, ci si è accorti che manipolando individualmente gli atomi ci sono tutta una serie di proprietà straordinarie di questi atomi, come ad esempio che invece di stare o in 0 o in 1, ciascuno di questi bit quantistici o qubit può stare anche in una combinazione, sia 0 che 1. Qui noi, di questo abbiamo già parlato altre volte in trasmissione, entriamo in una parte della meccanica quantistica che funziona, abbiamo teorie che ci dicono esattamente come vanno le cose, ma certo è avvolta in una sua intrinseca stranezza che ha un po', sembra un qualcosa di magico. Però lei dice, mi dica se sbaglio, no? Mentre l'interruttore è acceso e spento, noi lavorando con gli atomi come abbiamo delle vie di mezzo, tipo acceso spento, spento acceso, no? Abbiamo 4, 5, 6 variabili, a quel punto è chiaro che abbiamo un interruttore più potente che ci può dare più risultati. Insomma, è un po' questa l'immagine. Assolutamente, però la cosa straordinaria è che non sono solo 4 o 5 no, certo. Ma sono tantissime, sono veramente infinite, nel senso che io posso avere un atomino 30% in 0 e 70% in 1, oppure 30,124718 eccetera eccetera eccetera periodico, certo. E il resto in 1, io certo. Ho tutte queste possibilità. Interruttori infiniti è uno strano concetto, ma è così. Senta Calarco, in conclusione, ma quando arrivano, quando arriveranno? Guardi, allora, il computer quantistico che farà i calcoli e fattorizzerà i numeri e così via, ce l'abbiamo già, ma per numeri molto piccoli, per numeri dell'ordine di, che ce lo fanno anche i nostri figli elementari, dell'ordine di 10-20, no? E per renderlo proprio di uso pratico servirà almeno una decina d'anni. Invece però quello specifico, tornando all'inizio della nostra conversazione, quello specifico, il simulatore, abbiamo già i primi prototipi, e c'è già, che è stato il primo prototipo di un simulatore quantistico, è stato realizzato nei laboratori qui, dove è stato fatto una gara tra questo simulatore quantistico, che sta su un tavolo essenzialmente grande come il tavolo da pranzo di una casa piccolo di quindi di noi, e lui è riuscito a fare un calcolo dove invece il più grosso supercomputer d'Europa, che sta a Jülich, sempre qui in Germania, non riusciva a calcolare il risultato, e invece il simulatore quantistico è riuscito già a battere quell'altro in questa gara. Questo scenario lei e il suo team l'avete presentato all'Unione Europea, a Bruxelles, insomma, li avete convinti a darvi 1 miliardo di finanziamento, perché si è capito che c'è un grande orizzonte applicativo. Certo, c'è uno spettro molto ampio di possibilità tecnologiche, e queste sono state la base che ha convinto la Commissione Europea a garantire questo finanziamento. Tommaso Calarco, grazie, buon lavoro, buona ricerca, e appena fate qualche computer quantistico dedicato a qualcosa, chiamateci. Molto volentieri, e grazie tante a voi per l'attenzione. Punto, linea punto con Simone Terreni. Buonasera Terreni. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto. Autore del libro Dai segnali di fumo ai social, edito da Giunti, è un libro breve ma molto divertente, con una serie di storie che stanno all'origine di invenzioni che hanno avuto a che fare con la comunicazione, con l'utilizzo di segnali e di messaggi. Simone Terreni, lei è un imprenditore, ha un'azienda che lavora nell'area del VoIP, no? Se non sbaglio? Sì, esattamente. Però qui lei si è divertito a fare l'autore di un libro, appunto, come dicevo, molto breve e simpatico. Noi traiamo da questo libro una storia sola, specifica, che è divertente, che dà un po' l'idea di come lei ha scelto questi racconti. Quella di punto, linea, punto. La nascita del telegrafo. Samuel Morse. Come andò? Sì. Samuel Morse era un pittore, una persona che era molto molto famosa e molto conosciuta per le sue grandi capacità di ritrattista, una persona che addirittura si era messa a fare il dipinto del presidente degli Stati Uniti d'America, John Adams, e gli scrisse anche una lettera: caro Samuel, verrebbe a farmi un dipinto perché vorrei avere una bella immagine di me e la prego di non invecchiarmi molto. Allora lui partì, andò a Washington, fece questo dipinto molto molto bene, che divenne bene, e divenne molto famoso, tant'è che il governo degli Stati Uniti decise successivamente di dargli un nuovo incarico, gli volevano dare il monumento del generale Lafayette, il generale che aveva combattuto durante la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. E mentre lui se ne stava lì a cercare di studiare quello che poteva essere la composizione migliore della sua nuova opera, a un certo punto gli arrivò una lettera. Questa lettera gliel'aveva scritto suo padre, e c'era scritto che dopo breve malattia, purtroppo, sua moglie era morta. Rimase sconvolto perché, ma in qualche modo non si aspettava, sua moglie nel Connecticut se ne stava bene quando l'aveva lasciata. Però lasciò tutto e cominciò a chiedersi: ma perché io non sono riuscito a sapere in tempo reale della malattia di mia moglie e non sono riuscito ad arrivare al suo capezzale prima che morisse? Cioè, perché la comunicazione è stata così tardiva, ci ha messo così tanto ad arrivare, perché non c'erano i mezzi, giustamente. Pensi che un caso di successo era considerato il Pony Express, no? Il Pony Express, ecco, era una staffetta che ci metteva ben 16 giorni per passare dal Missouri alla California. Lui cadde in disgrazia, smise di dipingere, non ne voleva proprio sapere dell'arte, era quasi veramente sconvolto. E allora attraverso degli strumenti quasi di scarto, no? Di riciclo, lui che comunque era appassionato di energia elettrica, inventò il telegrafo, cioè incominciò attraverso da un punto a un altro a trasmettere impulsi elettrici, cosa mai successa prima. Partì per andare a cercare finanziamenti e naturalmente lui era famoso perché era un pittore, non perché era un inventore. Certo. Lì incontrò un altro personaggio molto importante, Alfred Vail. Alfred Vail era figlio di un ricco industriale, aveva tutta una serie di acciaierie e lui rimase stupito da questa invenzione. Colpito. Da parte di Morse. Sì, esatto. Allora scrisse una lettera a suo padre e gli disse: caro padre, ho trovato una cosa che insomma potrebbe essere interessante per la nostra industria, possiamo invitare il signor Morse a vedere se riusciamo a farla? E lui è così. Accettò, andò nella sua industria e dopo vari esperimenti dove Andy Vail dette una mano in maniera molto forte a quella che era questa nuova invenzione, erano pronti, però gli mancava il codice di trasmissione, cioè come fare a trasmettere un messaggio, perché alla fine erano solo impulsi elettrici, no? Allora qui nasce una cosa carina, un dibattito fra loro due. Samuel Morse lui diceva: per ogni parola un numero, quindi credo, uno, casa, due, buonanotte, strada, tre, prato. Però diventava complicato. Un dizionario è enorme, giusto, no? Invece Andy Vail, basandosi su segnali elettrici brevi, segnali elettrici lunghi, quindi sul punto e sulla linea, inventò un alfabeto e dedicò questo alfabeto all'inventore del telegrafo che era Morse. Quindi molto creò bello l'alfabeto Morse. È una storia anche di amicizia. Ecco, per conoscere storie di innovazione di questo tipo, allora vi consigliamo Dai segnali di fumo ai social. L'autore è stato qui con noi, Simone Terreni, ed edito da Giunti Editore. Grazie Terreni e buon lavoro. Ma grazie a voi, buona lettura e buone vacanze a tutti. Sistema Morse. Pensa che bello potrebbe fare la radio con Sistema Morse, nessuno capirebbe nulla. Ecco. Va bene, siamo giunti a conclusione, quindi buona noi ci sentiamo settimana. Tra 7 giorni. Ciao a tutti. A tutti e a tutte.